si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, 7:34 minuti, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, buongiorno nel weekend di Radio 24, stiamo insieme fino alle 10, un'occhiata veloce, tra poco alle pagine dei giornali di oggi con questa rassegna stampa che ci accompagna verso il giornale radio delle 8, poi inizieremo con i nostri approfondimenti con Si può fare. 349-238-6666 se volete commentare le notizie via sms, anche su WhatsApp, poi c'è la pagina Facebook di Si può fare, Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio personale chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo con i giornali, vai. E allora, giornali che oggi dedicano quasi tutti un titolo, se non il titolo principale, al completamento della giunta di Roma con la nomina dei nuovi assessori al bilancio e alle partecipate, dopo che appunto questo assessorato è stato diviso, è stato spacchettato. Poi c'è spazio anche per il caso Deutsche Bank che agita le borse con una spiraglio sul fatto che la sanzione comminata dagli americani a Deutsche Bank possa andare verso una transazione, quindi una forma attenuata, e quindi questo ha dato fiato alle borse. E questo sostanzialmente, poi anche l'addio a Bernardo Caprotti, è scomparso dopo alcuni mesi di malattia, il fondatore dell'Esselunga. Ci sono ritratti e insomma parole di saluto e di riconoscimento inevitabile per il lavoro fatto da Caprotti, uno degli imprenditori sicuramente più all'avanguardia. Pensiamo che ha iniziato quasi 60 anni fa con il ramo dei supermercati, quando in Italia questo ancora quasi non esisteva. Ma cominciamo con la questione di Roma e andiamo a vedere come l'affrontano i giornali di oggi. Il Corriere della Sera scrive: nuovi assessori 5 Stelle divisi. Al bilancio il fedelissimo Mazzillo, fedelissimo perché è stato fa parte dello staff di Virginia Raggini, ha curato, se ho ben capito, adesso vedremo il bilancio durante la campagna elettorale. Alle partecipate Colomban, che si candidò invece per Zaia. Raggi completa la squadra, c'è un ex PD, i PM parlano invece ancora, si occupano ancora dell'assessore, dell'altro assessore Paola Muraro, contratti truccati per Paola Muraro. Perché 5 Stelle divisi? È quello che scrive anche il Messaggero, per esempio, Quotidiano Romano. Raggi, le nomine spaccano il Movimento 5 Stelle, ad alta voce nessuna spaccatura, a bassa voce i giornali riportano le parole di alcuni membri del direttorio romano e di altri esponenti del 5 Stelle, che si lamenterebbero, con dei virgolettati però anonimi, per esempio anche sul Messaggero, su Roma adesso si decide a Milano, in riferimento al fatto che Colomban sia un uomo di Casaleggio. Era Colomban, imprenditore, era amico di Casaleggio, avevano un trascorso, un'amicizia insieme, quindi qualcuno dice questa è una nomina pilotata da Casaleggio Junior adesso, e quindi da Milano, una nomina eterodiretta in qualche modo. Il Repubblica scrive: Raggi fa le nomine ma è lite, assessori, il capo del suo staff e l'industriale veneto amico di Casaleggio, riesplode il caso Muraro. E così via di questo passo, insomma, i titoli sono questi. Il Fatto Quotidiano: scelti due di noi per non tornare a Mafia Capitale, è il virgolettato di Virginia Raggi, intervista alla sindaca di Roma sui primi 3 mesi di fuoco. E vediamo cosa scrivono però anche i giornali su queste due nomine. Per esempio, chiaramente i giornali fanno anche un po' le pulci. Il Corriere, a proposito dell'assessore al bilancio, Mazzillo, dipendente di Equitalia, gestiva i fondi per le urne. È un commercialista, capo dello staff della sindaca, è stato il suo mandatario elettorale, nel senso che ha curato la raccolta e la gestione dei fondi. una figura di basso profilo, dicono alcuni esponenti del direttorio, senza volersi però rivelare. Non è un caso, scrive il Corriere, che Luigi Di Maio, lodando le nomine, si sia soffermato solo sull'altra figura, quella di Massimo Colomban, di cui parliamo tra un attimo. Mazzillo, per tornare appunto alla nuova assessora al bilancio, si candidò nella lista civica per Veltroni a Ostia e non fu eletto. Poi rimase come coordinatore della lista Roma per Veltroni nello stesso municipio. Si è candidato anche alle primarie per la segreteria regionale del PD a sostegno di Nicola Zingaretti, quindi un uomo politicamente che viene dal PD. E fin qua diciamo che insomma, il Movimento 5 Stelle è un movimento trasversale che pesca da tante parti, e qui, fin qui potrebbe anche non esserci niente di strano. Arriva l'endorsement di Nicola Latorre, che lo definisce una persona per bene e capace. Latorre, chiaramente un parlamentare, un esponente del centrosinistra, un commercialista, dicevamo, Mazzillo, è un dipendente di Equitalia in aspettativa, non è un docente all'Università di Tor Vergata, come detto inizialmente, ma è semplicemente un dottore di ricerca. E questo è il primo assessore. L'altro è Massimo Colomban, candidato già in passato per una lista centrista a favore del leghista Luca Zaia, quindi qua siamo sulla sponda opposta. Entusiasta dell'innovatore Matteo Renzi, così si è detto in passato. È comandante onorario, questa è una curiosità, della base militare atomica di Aviano. È un costruttore, si è sempre detto favorevole alle grandi opere, anche alla TAV, ha lavorato alle Olimpiadi, ha lavorato per sui cantieri delle Olimpiadi, non mi ricordo più di quale Olimpiadi del passato, forse Barcellona, forse qualcos'altro, ma insomma, ieri a Radio 24 la Zanzara è caduto subito in una gaffe. Quante metropolitane ha a Roma, quante linee metropolitane ha a Roma, non lo so. E il bus 64 non lo conosco. Vabbè, è uno che a Roma c'è stato, ma da turista. Vedremo se invece saprà utilizzare la sua professionalità manageriale per gestire questa parte di assessorato che è stato spacchettato, la gestione delle partecipate. Colomban è il fondatore di un'azienda importante, l'ultima nota del curriculum che ricorda il Corriere, per Mestelisa, che ha costruito e restaurato tra l'altro il Castelbrando, una fortezza anti-ungari diventata hotel di lusso. Invece sulla questione di Paola Muraro, l'assessore attuale, assessore all'ambiente, indagata e accusata di essere una sostenitrice del business delle discariche, perché è amica del re della discarica di Malagrotta, Ceroni, amica ma nel senso che aveva anche un incarico, era la presidente della lobby delle aziende di inceneritori e di discariche, e non c'è niente di male, ma insomma questo era il suo ruolo prima di essere nominata assessore all'ambiente del Movimento 5 Stelle, che ha nel suo programma, questo è il punto, la contraddizione, la strategia rifiuti zero, quindi zero anche discariche, zero inceneritori, tutto riciclo e tutta raccolta differenziata. Scrive però il Corriere, pur di favorirla sarebbe arrivato a retrodatare i contratti su alcuni incarichi assegnati per il suo ruolo di consulente e a pagare cifre esorbitanti per compiti che avrebbe potuto affidare ad un dipendente di medio livello. Dalle telefonate registrate nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale emergono nuovi dettagli sugli illeciti dell'ex direttore generale di AMA, Giovanni Fiascon, di lui stiamo parlando, che avrebbe appunto compiuto questi illeciti per aiutare Paola Muraro, poi diventata assessore all'ambiente. Oltre alla collaborazione professionale, i due, Fiascon, direttore generale di AMA, e Muraro, avevano anche un rapporto privato, ed è stato proprio questo a far scattare per entrambi il reato di concorso in abuso d'ufficio. E fin qua siamo alla vicenda romana. Siamo alla vicenda romana. Ieri però c'è stato, ed è questo il titolo, c'è questo per esempio su Repubblica, il confronto tra Renzi e Zagrebelsky sulla 7 sul tema della riforma costituzionale, il premier e il professore, le due Italie sul ring della TV. Scrive Michele Smargiassi su Repubblica: signor Presidente, Professore, basterebbero gli appellativi previsti dal Galateo a rendere visibile la differenza, ma conta anche il linguaggio del corpo nella sfida tra le ragioni del sì e quelle del no. Matteo Renzi, col busto inclinato all'indietro, rilassatezza, ma anche stare in guardia. Zagrebelsky, leggermente piegato in avanti, atteggiamento in attacco, ma anche pedagogico. Insomma, si fa riferimento a questo faccia a faccia che c'è stato ieri, moderato da Enrico Mentana sulla 7, tra Renzi e Zagrebelsky, una sfida ad armi dispari, scrive appunto Repubblica, facendo riferimento al fatto che, insomma, sostanzialmente Renzi ha molta più dimestichezza con lo strumento televisivo di quanto ne abbia Zagrebelsky, quindi sostanzialmente la sfida la vince Renzi dal punto di vista televisivo, però poi bisogna vedere, soffermandosi sui contenuti, si dà un altro giudizio, ma è chiaro che la televisione deforma da questo punto di vista le cose. Prosegue Smargiassi, leggiamo, che è curioso, insomma, la mimica di Renzi e di Zagrebelsky. Renzi, mani spesso aperte a sollevare qualcosa di pesante, lo sguardo che si ricorda ogni pochi secondi di agganciare quello delle telecamere, cioè dello spettatore. Una cartellina sul tavolo, non scrive, è solo una faretra piena di frecce per mettere in contraddizione l'avversario. Zagrebelsky invece, mani che spesso si uniscono come a tenere stretto qualcosa di importante, un quadernino su cui scrivere a tratti, gli occhiali sul tavolo, lo sguardo quasi sempre fisso sul suo avversario. Insomma, è un confronto, se non ad armi dispari, fra universi distanti. Oh, però la notizia c'è stata alla fine di tutto questo, perché la mossa di Renzi è arrivata, modifiche all'italicum sui capilista, cioè siccome la questione del referendum costituzionale viene legata a quella della legge elettorale, per cui non si voterà, sono due cose diverse, ma la legge elettorale è già stata approvata, l'italicum, però viene molto criticata dagli stessi che criticano anche la riforma costituzionale, e insomma una parte di queste critiche sono disposte a sarebbero disposti a votare sì alla riforma costituzionale di fronte ad un cambio di rotta di Renzi sull'italicum. Questo cambio di rotta ieri è stato in qualche modo ribadito: l'italicum non è un rischio per la democrazia, ma accetto comunque di fare un passo indietro se vogliamo cambiarlo. Come PD prenderemo un'iniziativa per togliere ogni dubbio, dice Renzi. Per esempio, non mi piace la questione dei capilista bloccati, è una delle cose su cui vorrei intervenire, mentre le preferenze permettono ai cittadini di scegliere. E va bene, questa è la mini notizia che è emersa ieri dal faccia a faccia tra Renzi e Zagrebelsky sulla 7, moderato da Mentana. Adesso ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizio, ascoltatori, e siamo a vedere di cosa si occupa il giornale di oggi, delle nomine dei nuovi assessori a Roma. Ne abbiamo già parlato, abbiamo letto anche un resoconto del confronto televisivo atteso tra Renzi e Zagrebelsky sulla riforma costituzionale. C'è la questione, dicevamo, Deutsche Bank ad occupare i titoli di quasi tutti i giornali. Deutsche Bank verso uno sconto sulla multa americana, scrive il Corriere della Sera. La paura Deutsche Bank fa tremare l'Europa, Francoforte parla di speculazione, così la Repubblica, il Sole 24 Ore, Deutsche Bank scuote le borse, giornata in altalena sulle piazze finanziarie europee, Francoforte chiude a più 1, Milano a più 0,38%, la banca prima crolla, poi risale, trascina al rialzo i listini per le voci di accordo sulla multa americana. In effetti Deutsche Bank recupera il 6,4%, scrive il Sole, dopo aver toccato in mattinata i nuovi minimi storici in seguito alla fuga degli hedge fund. Il rimbalzo del titolo tedesco segue le indiscrezioni di un patteggiamento con la giustizia americana che, questa è la notizia, ridurrebbe la sanzione definitiva da 14 a 5,4 miliardi di dollari. L'altra notizia che c'è su tutti i giornali è la scomparsa di Bernardo Caprotti. avrebbe compiuto tra pochi giorni 91 anni. Scrive Repubblica: quando Caprotti inventò i supermarket, morto il patron di Esselunga, per il Corriere, i supermercati e le sfide, addio a Caprotti, il fondatore di Esselunga, è morto a 90 anni, interpretò i gusti dell'Italia del boom. Per dire ancora, il giornale gli dedica una foto a centropagina: addio a mister Esselunga, ha rivoluzionato la nostra spesa. Per Libero, Caprotti, maestro di vita e di lavoro, morto il fondatore di Esselunga, con un impero da 7 miliardi, e sappiamo che l'impero è predicato di poter essere venduto, con i figli che prima sono dovuti uscire e poi rientrare per le note vicende giudiziarie proprio con il padre. Ma c'è una curiosa intervista che fa il Corriere subito, notizia arrivata ieri sera, perché dopo un anno di malattia, Caprotti, che avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 7 ottobre, appunto è morto ieri sera, il Corriere intervista Pierluigi Bersani, che scrive: il dolore di Bersani, l'amico di sinistra, conosceva ogni singolo scaffale, ci vedevamo ogni anno, era venuto a farmi visita quando stavo male. Una amicizia inedita da un certo punto di vista. Caprotti aveva simpatie sicuramente non di sinistra, ma tant'è. Quando vi siete incontrati la prima volta? Non l'avevo mai conosciuto, fino a quando da ministro nel 1998, dice Bersani, fece la riforma del commercio. Allora scoprì che avevamo incrociato tante idee, aspettative, intenzioni comuni. Da quel momento iniziamo a frequentarci, confrontandoci su quei temi. Lui, ai miei occhi, era l'inventore di un modello straordinario, un insieme di tante cose, intuito nella localizzazione dei punti vendita, poi un'idea chiara della pezzatura del negozio, capacità nella logistica, soprattutto era un convinto sostenitore dell'importanza della formazione e dell'organizzazione del personale. Gli domanda però il giornalista del Corriere una gestione dei dipendenti che però gli ha attirato non poche critiche, perché ha avuto molti scontri con i sindacati, Caprotti. È vero che in lui c'era un elemento paternalistico, dice Bersani, però alla fine riusciva a combinarsi con un'idea industriale di prima grandezza. Era un uomo che aveva un rapporto intimo con le sue attività, fino alle sue propaggini più estreme. Più di una volta l'ho visto girare nei suoi negozi, sapeva tutto di ogni singolo scaffale. È stato un imprenditore straordinario, secondo Bersani, che ancora prosegue ricordando quando, dopo aver che Bersani ha avuto un malore, Caprotti si è presentato a casa per salutarlo. È venuto a casa mia a Piacenza, mi ha fatto una sorpresa. Sono cose che fanno molto piacere e che non si dimenticano. E questo è il ricordo di Bersani, che come ministro delle liberalizzazioni, insomma sulle liberalizzazioni, aveva incrociato il percorso di Caprotti sulla questione dei supermercati. Allora, che altro? Altri titoli, velocemente, giornali che si occupano di altre questioni, per esempio il Giornale, che scrive: a proposito del terremoto, il terremoto diventa un affare per PD e Coop, furbetti sinistri, il primo appalto da 1 miliardo di euro va ad un consorzio di Lega Coop, di cui fanno parte 192 cooperative, tra cui una di quelle che facevano riferimento a Salvatore Buzzi. Poi il Fatto Quotidiano invece si occupa di un'altra notizia, se lo trovo, ma non lo trovo in questo momento, sì, eccolo qua, si occupa di Alfano Junior. La Corte dei Conti indaga sul contratto alle Poste, il fratello del ministro segnalato dall'ex amministratore delegato Sarmi, e la Procura e la Corte dei Conti che indaga su questa assunzione. Ancora un'altra notizia è quella di, anche in questo caso se la troviamo, quella di Cagliari, ecco qua. Bimbi, migranti, bagni separati, accade a Cagliari in una scuola privata, poi però dopo le proteste dei genitori si fa dietro fronte per le appunto proteste dei genitori. Questa è una cosa che attraversa l'Italia di oggi, ma insomma non c'è tempo per commentarla. È tutto per la rassegna stampa, c'è il Giornale Radio, poi ci ritroviamo subito dopo con Si può fare. Ciao. JP Morgan Asset Management vi presenta Si può fare, si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati, 800 24 00 24. Come sempre, ogni sabato e domenica mattina vi aspettiamo per stare con noi, per commentare tutto quello che volete e per giocare con noi. Oggi è sabato oggi. E quindi abbiamo il gioco. Sì, ma anche domani, domani il personaggio, oggi il gioco. Oggi vi chiediamo all'800 24 00 24 la risposta più convincente, come ogni sabato mattina si porta a casa, in questo caso i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Vi chiediamo, è stata la settimana nella quale si è alzato il gran polverone, il grandissimo polverone del ponte sullo stretto. Potevamo noi esimerci, no? Il polverone eterno, peraltro, perché sì, è una cosa ciclica. Ogni tot anni qualcuno tira fuori così l'asso nella manica. Allora, siccome questa è la grande opera, parentesi, inutile. Anzi, il ponte nella manica, direi. Il ponte nella manica. Questa è la grande opera degli italiani, grande opera inutile. Non è la mia posizione, ma è quella ufficiale, sì. Volevi dire? È la posizione ufficiale. Ormai è chiaro, perché più se ne parla e meno si realizza. È la grande opera degli italiani, però ogni italiano, ogni territorio ha la sua grande opera inutile, diciamo la verità. Il traforo da Milano a Varigotti ci vorrebbe, perché d'estate si fa una gran coda, signora mia. Vedi. E quindi questo vi chiediamo: quali sono per voi le opere che andrebbero fatte? O forse solo per voi, proprio nel senso che sarebbero molto comode per voi, il nucleo familiare di quattro persone, quindi volete assolutamente imporle a tutta Italia. Che ne so, l'alta velocità tra Bari e Pescara. Perché soltanto la Torino-Lione, Milano-Napoli? Perché quelli del lato est devono essere emarginati? Insomma, quindi chiamateci 800 24 00 24. E non solo sulla viabilità, ovviamente. Sogni, progetti, qualunque cosa pensate che sia veramente inutile per questo paese. Bravo, purché sia inutile. Esatto. Questo è il concetto. Allora, tra poco parleremo di una iniziativa che riguarda i rifiuti in Sardegna, un'iniziativa che fa un po' discutere. Poi insomma avremo tante cose. Il nostro super ospite di oggi è Enrico Bertolino. Parleremo del suo spettacolo sulla Costituzione e sul referendum. Perché quindi è un modo per prenderla anche questa. 800 24 00 24. Vai, iniziamo. Può darsi tu non sia come ti volevano. Se ti consolo come te, ci siamo in un bel po', perciò, oh, oh, oh, oh, oh, perciò tu sei quello lì, perciò, oh, oh, oh, oh, perciò noi siamo questi qui, con queste facce qui, con queste facce qui. Siamo questi qui, perciò, fra pregi e limiti. E queste facce qui. Che facce avranno quelli che abbandonano i rifiuti dove non si dovrebbe? Sa che facce avranno. Io stavo guardando la tua e la mia, dicevo, con queste facce qui. Per fortuna non si vedono, siamo in radio, esatto. Allora, l'iniziativa viene da Olbia: se abbandoni i rifiuti, finisci sulla pubblicità, anche se le facce in realtà sono pixelate, come si dice. Ma insomma, il sindaco di Olbia non scherza per niente. Con noi, buongiorno, Settimo Nizzi. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Allora, questa iniziativa che potrebbe sembrare una butad, in realtà è una butad? No, è vera. No, è vera, è vera. No. Assolutamente è vera. È una cosa molto seria. Sì. Perché sporcare la città, non fare quello che fanno tutti, soltanto perché uno non ha voglia di assecondare quelle che sono le regole che ci diamo, penso che non sia una cosa sulla quale si possa scherzare. Mi fa quasi paura, sindaco, con questa voce qua, con questa iniziativa, mi sembra quasi che stia parlando allo sceriffo del West. No, io sono una persona tranquillissima, sì. Ho la voce un po' bassa. Abbiamo molta paura, non per quello. No, abbiamo molta paura di sbagliare a buttare via un qualche cosa nel suo comune, nel senso che giustamente lei dice le regole vanno rispettate, la gogna pubblica ci preoccupa sempre. In questo caso effettivamente ci stiamo dicendo che forse va anche bene questo fatto di mettere le foto di chi non butta la spazzatura nel posto giusto, di fare le foto, metterle su un camion e far girare il camion per la città mostrando a tutti, ecco, queste sono le persone che stanno sporcando la nostra città, giusto? Giustissimo, noi abbiamo innanzitutto dato ampio risalto da prima che con i filmati, naturalmente ben oscurati per non far riconoscere tra virgolette gli autori di queste azioni. Perché questo non sarebbe consentito, appunto, dalla privacy, appunto, no? Appunto, su internet, su Facebook e su tutti i social. Abbiamo però voluto far vedere a tutti coloro i quali non usano questi mezzi che con una pubblicità di questo genere si può ancor più sensibilizzare. Sì, soprattutto... Non è facile... Prego, prego. Ho detto non è facile convincere alcune persone a continuare ad essere così superficiali, però ce la mettiamo tutti. Esattamente che immagini sono? Cioè, dove le andate a pescare le immagini dei trasgressori? Facciamo le riprese con telecamere nascoste e poi naturalmente estrapoliamo con degli screenshot fermo immagine, facciamo delle foto e riprendiamo. E poi le stampate sul classico camion della pubblicità che va in giro per Olbia. Ma comunque un po' riconoscibili dovranno essere, nel senso che giustamente dice non sono però se non sono riconoscibili non serve a niente, perché uno dice vabbè, non è riconoscibile, potrebbe essere mia nonna, e invece giustamente mia nonna si offende, dice no, quella lì è la nonna di tuo cugino e si vede benissimo. Magari il mio vicino di casa, conosco la macchina del mio vicino di casa, conosco anche magari i pantaloni, la maglietta che usa di frequente. Per cui posso anche dirgli forse non è il caso. Tra l'altro il suo sindaco è un comune turistico, quindi ci possono finire di mezzo anche i turisti. E infatti anche molti turisti sono stati beccati. Beccati anche loro. Ma non c'è il rischio di mettere i cittadini gli uni contro gli altri? È una buona fortuna quella, perché tutti devono essere partecipi nel rispetto della cosa pubblica. Quando il bene è di tutti... Tutti devono compartecipare, penso che sia un principio assoluto questo. Io devo dire che mi è capitato una volta, mentre andavo a correre lungo la ferrovia qua di Milano, eccetera, di vedere un signore scendere all'auto con dei secchi, credo di vernice avanzata, eccetera, e io dicevo chissà questo cosa sta facendo. Poi mi sono accorto che l'aveva semplicemente depositato lì, è andato via con la macchina, abbandono di rifiuti, e ho pensato cosa potrei fare io qua, e non avevo nessuno strumento da utilizzare. Ecco, invece se fossi Olbia potrei fare un paio di foto, mandargliele, e voi appunto, poi le potesse... E noi poi facciamo il resto. Bisogna anche dire... Sì, prego. No, prego, prego, sindaco. È una cosa da fare, infatti noi abbiamo fatto anche... Abbiamo cercato di sensibilizzare la gente mandando alcuni... creando una chat laddove i rifiuti possono essere... Le foto possono essere inoltrate al corpo di polizia... municipale. Quindi anche il singolo cittadino può mandare la sempre metodi un po' intimidatori, se si può, un po' da sceriffi. Sono metodi democratici. Bisogna anche dire una cosa a favore di Olbia, ed è questa, cioè che voi non utilizzate soltanto questi metodi un po' da sceriffi, un po' polizieschi, come dice Carlo, ma utilizzate anche metodi di raccolta differenziata, perché siete giunti a che livello? A un buon livello? 75%, siamo un comune virtuosissimo, non virtuoso, virtuosissimo, e allora farci macchiare dalla cattivi comportamenti da parte di alcune centinaia di persone, quando andiamo in giro per strada, soprattutto d'estate, e vediamo i rifiuti abbandonati sulle strade, abbiamo un costo abbastanza elevato per il servizio, 17 milioni e 100 mila euro all'anno i nostri concittadini pagano per una cittadina di 60 mila abitanti in comune, ma un centinaio di migliaia di abitanti che vivono quotidianamente la nostra città, io penso che non sia cosa di poco conto. Certo, va detto, come stava dicendo anche Alessio, che prima il comune ha fatto di tutto per avere una raccolta differenziata a regola d'arte, perché di solito se no ci sono anche molti cittadini che dicono ma qui non si capisce dove mettere le cose, non si sa, poi il camion non arriva, invece in realtà ad Olbia funziona tutta la questione della differenziata, e quindi si è arrivati a un punto di dire adesso sistema... l'abbiamo messa a posto, adesso però usatela, chi non la usa viene denunciato. Giusto? Adobbia c'è il servizio, giustissimo, Adobbia c'è il servizio porta a porta, cioè la ditta che va a casa dei propri concittadini, dei nostri concittadini, va a casa a ritirare il mastello con la diversa con i diversi tipi di immondizia che vanno ritirati. Perciò un servizio anche sin troppo facilitato per i nostri concittadini. Anche se poi sappiamo che il porta a porta, sindaco, a volte crea qualche imbarazzo, qualche problema, perché per esempio ci sono delle zone, adesso non per parlare sempre di Roma, però è emerso anche con gli ascoltatori la settimana scorsa, quartieri nei quali si annuncia il mercoledì che il passaggio per il ritiro dell'umido, poi per qualche motivo l'azienda non passa o passa con molte ore di ritardo, l'umido rimane lì, fa... E si passa al mercoledì dopo. Esatto, allora lì ad Olbia come andate? No, ad Olbia funziona, si dice il mercoledì mattina, il lunedì mattina c'è l'umido e il lunedì mattina passano, è diviso per, naturalmente per quartieri, per zone la raccolta, per cui vengono regolarmente. Guardi che abbiamo gli ascoltatori, se dice qualcosa sì, di... lo so, puntualizzano, ma può capitare che ci sia un piccolo disguido, però parlo di piccoli disguidi, non parlo di grosse cose, perciò funziona abbastanza bene. Senta, ma chi sono più chi è che si comporta peggio, i residenti o i turisti, visto che avete li avete fotografati, insomma? Mediamente. Percentuale più i turisti, perché coloro i quali naturalmente vanno ad affittare case e naturalmente non accedono a quelli che sono fondamentali i principi della normativa sulla tassazione, per dirla in maniera un po' un po' gentile, gentile appunto, ma sì, naturalmente non ritirano i mastelli, per cui alla prima occasione buttano tutto, oppure gente che arriva con la nave e dice questa non ha una casa, ha fatto il giro, oppure era in albergo, ha comprato qualcosa, ha mangiato, dice dove la butto? La butto per strada. Certo, a questo punto noi ci stiamo anche già adeguando, perché bisogna naturalmente fare quelle piccole correzioni che servono anche per aumentare i servizi. Certo. Fare delle piccole isole ecologiche ben fatte, dove uno con la semplice carta di credito, senza pagare niente, con il codice fiscale, o comunque con uno strumento che possa servire a far identificare la persona, apre il sistema e uno può buttare tranquillamente sia l'indifferenziato che l'umido che la plastica che il vetro, certo, senza pagare. Ma funziona anche con i turisti questa strategia della gogna? No, la strategia, dico, perché uno dice magari io vivo da un'altra parte, se anche durante tutto l'anno la mia foto va sulla vela mi importa poco. Certo, sì, assolutamente, questo sì, però magari può essere riconosciuto da chi gli ha affittato la casa, oppure può essere riconosciuto da chi, magari dal bar, certo, dal cameriere o dal titolare da un esercente che magari lo conosce, certo. Ma invece dal punto di vista legale è possibile fare questa cosa che state facendo, o state un po' forzando la mano anche come esempio, insomma? È possibile, proprio perché noi naturalmente non facciamo riconoscere direttamente la persona, perché altrimenti uno che compie un illecito, purtroppo in Italia a chi compie un illecito deve essere salvaguardato. Tu non puoi dire ad uno che ha compiuto l'illecito pubblicamente guarda che tu hai fatto questo. Il sindaco vorrebbe questo, nel senso che prima deve esserci una magistratura che decide buona se... parte, se è stato compiuto o meno il crimine, ma quello che mi chiedo, perché lei giustamente dice non sono perfettamente riconoscibili, ma sono riconoscibili, perché sennò, come dicevamo prima, questo metodo non funziona, appunto, quindi state appunto un po' giocando sul filo, giusto? È a prova di ricorso, sì, questa iniziativa? Ma io non penso, per due motivi. Prima di tutto perché viene riconosciuta da pochissime persone, perciò non c'è una diffusione pubblica dell'identità del contravventore, sì, per cui viene riconosciuta solo da pochi, diciamo, per caso, per cui l'importante è che noi non diciamo pubblicamente chi è il contravventore. Certo che la polizia municipale lo rintraccia e poi gli controlliamo non soltanto se ha pagato o meno la tassa dei rifiuti solidi urbani, ma andiamo a casa, controlliamo i metri quadri, controlliamo con l'Agenzia delle Entrate, con la Guardia di Finanza. Beh, questa di nuovo però... Facciamo lo screening completo della persona che ha fatto questo. Cioè, è un po' un'ulteriore minaccia, giusto? Questo per dire, guardi, è che... una minaccia, no. Questa è una conferma del fatto che facciamo sul serio. Certo. Perché io, siccome tu hai compiuto un atto, tra virgolette, un atto illecito, perché l'inquinamento ambientale è naturalmente penale, e allora io vengo a casa tua e ti controllo tutto, perché io posso controllare a campione, la legge dà questa opportunità di controllare tutte le volte che vuole, non deve stare tutti i giorni a controllare la casa, però sa, può capitare che qualcuno nel tempo non abbia fatto quello che doveva fare, per cui quello che era previsto dalla normativa, per cui noi poi andiamo e facciamo uno screening completo, perché dobbiamo portare la gente a comportarsi bene. Ma voi la fate, la applicate la tariffa differenziata per chi differenzia di più, pagare di meno di tassa sui rifiuti, che è uno dei punti su cui pure la strategia zero rifiuti punta, per premiare anche, quindi non solo penalizzare il cittadino scorretto, sì, ma premiare quello bravo. Assolutamente. Non premiamo il bravo, perché non è possibile premiare il bravo, viene premiata la città, perché se la città raggiunge quei valori, naturalmente viene premiata, e perché noi siamo premiati. Questo bisogna dirlo. Intanto lo ringraziamo, il sindaco di Olbia, per essere stato con noi, Settimo Nizzi, grazie. Bisogna dire che il 75% di raccolta differenziata non è poco per una città, anche se piccola come Olbia. La Sardegna pure, e non attraverso strumenti come questo, ma anche attraverso strumenti più normali, sta raggiungendo ottimi risultati nella raccolta dei rifiuti, quindi bravi sardi, bravi a Olbia. Poi questa iniziativa qua in particolare è un po' più discutibile, ma a me diverte, sì, devo confessare, anche perché stiamo parlando appunto di un certo tipo di illecito o di reato, non sto dicendo che sia poco importante, anzi è importantissimo, però mi sembra più fattibile che su altro tipo di reati il fatto di dire vabbè, ci siamo stufati, è un po' come nel condominio, no? Tutti siamo stufi quando all'interno del condominio c'è quello del sesto piano che ancora adesso butta le batterie dentro nella plastica e tutto il condominio paga, sì. Uno a un certo punto bussa al signore e dice senta, la smetta, perché sennò la multa la paga lei. Da qui a mettere davanti alla cassetta delle lettere una foto dicendo il signor Puzzetti ci ha rotto le scatole, ecco, insomma, ci sta in quest'ottica. Sai cosa mi fa impazzire? A me mi fa impazzire quelli che buttano nell'umido i sacchetti che sono trasparenti ma sono di plastica. Siccome sono trasparenti pensano che siano biodegradabili, ma non è così. Quello mi fa impazzire, e ce ne sono tantissimi. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo tra poco anche con le vostre grandi o piccole opere inutili. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati, 800 24 00 24, ci ha chiamato Elena dalla provincia di Milano. Ciao Elena, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi, tutto buongiorno. Bene? Buongiorno, benissimo. Ottime sempre le vostre trasmissioni, veramente, le seguo con molto interesse. Grazie Elena. Grazie a voi. La mia proposta è questa. Mio marito soffre mal di lago quando si fa la traversata dall'Aveno Mombello, che è in provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore, fino a Intra. A Verbagna, esatto, Verbagna Intra, sponda invece piemontese. E allora la mia proposta dell'opera inutile è una... mi viene il termine funivia, ma non è corretto, una cabinovia che colleghi le due sponde in modo tale che non abbia più questo problema. È chiaro, è chiaro. Perché suo marito non ha paura invece della cabinovia? No, assolutamente, si godrebbe il paesaggio dall'alto, siamo sciatori, quindi amiamo funivie, cabinovie, vari strumenti. Sei entrata nello spirito perfettamente. Esatto, direi che è proprio questo che cercavamo, cioè progetti che servono esattamente a una sola persona e con questo si cambia completamente, possibilmente anche la morfologia del Lago Maggiore, modificando il traghetto, che ricordiamo è un traghetto bellissimo che ci mette 20 minuti. Esatto, comunque non è da sottovalutare. Sì, lo conosco, Un po', è un po' la logica del ponte sullo stretto, perché già si passa col traghetto, non è che non si passi, però si vuol fare il ponte. No, lei vuole la cabinovia da una sponda all'altra del lago. Di più, da dalla provincia di Milano c'è anche l'autostrada, Ah, quindi dice proprio aggiungia abbondantis, come diceva Totò, abbondantis. Vabbè. Esatto, perfetto, esatto. Elena, grazie. Grazie mille. Comunque sì, conosco benissimo le zone lì e infatti ci sono stato poco fa perché erano zone della mia infanzia, ma ci sono tornato, anche perché presenterò il mio libro a Pallanza, che è dall'altra parte, appunto, del lago, il 16 di ottobre. Scusami, ne ho approfittato, ma non sapevo che un'ascoltatrice avrebbe chiamato proprio nominando il posto. Paolo da Olbia, buongiorno. Noi siamo partiti proprio da Olbia stamattina con il sindaco sulla questione rifiuti. Non è una cosa da poco. Buongiorno. Buongiorno. Che c'è, Paolo? Dico, cosa ci volevi dire? Non è da tutti avere un sindaco come quello che abbiamo ad Olbia. Anche perché lui è già stato 10 anni sindaco ad Olbia e ci ha dimostrato nel tempo. E quindi lo amate. A questo tipo. Quindi lo amate. Da parte mia, è come me, credo. Noi veramente lo augurerei a qualunque comune di avere un sindaco come il nostro. Oh, questo è molto bello, perché è anche molto raro di solito sentire cittadini che fanno i complimenti ai politici di riferimento. Ma la dovresti vivere la nostra città. Lui in genere sono più che altro i baffa che arrivano. E adesso da 2 mesi, ma si è visto subito, immediatamente. Lei approva, Paolo, l'iniziativa? Paolo, lei approva l'iniziativa? Ma tu devi vedere il nostro paese come pulito. Perché avete tutti paurissimi di essere fotografati o anche per altri motivi? Non solo per questo. Ha cancellato tante di quelle cose non fatte nel tempo, ti ripeto, lui è già stato sindaco in passato. Sì. Paolo, ma lei dica la verità, è parente del sindaco? Magari, amico. Magari, ho avuto sempre dei grandi scontri con lui, Sono stato anche 2 o 3 anni che non mi parlavo con lui. Però lo riconosco che quello che fa lui fa la differenza. Va bene, perfetto. Molto grazie, bene, Paolo. Grazie mille. No, quindi non ci vuoi proporre un'opera inutile per il vostro paese? Per la Sardegna, Olbia. Io ti prego, mio ospite, di venirla a vedere e poi ritornerai tra 6 o 7 anni e la rivedrai ancora più bella. Va bene, Ciao Paolo, grazie. Grazie mille, buona giornata. Bene. Andiamo sul traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai. Perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù. Voleva arrivare fino in cielo, il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Vabbè, l'abbiamo presa così, Abbiamo preso così. Aveva un grattacielo nel Perù. La tocchiamo leggera, la tocchiamo così. Marco Amoretti, in arte l'autonauta, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Marco. Appunto, sia tutti gli autonauti e non. Ciao. Autonauta.it è il viaggio di Marco Amoretti, che nella vita... cosa fai nella vita? Guarda, a parte questo viaggio di cui adesso parliamo, cosa fai nella vita normalmente? Allora, faccio, riciclo il ferro, faccio delle sculture, così un po'. Scultore, scultore, vieni presentato così, scultore 39enne, ti ritrovi in questa didascalia? Sì, sì, sì, infatti la storia è cominciata proprio modificando questa automobile, sempre fatta di ferro. Ecco, perché diciamo È il vostro elemento il ferro, insomma. Bravo, Marco Amoretti, scultore di 39enne, sta circumnavigando l'Italia a bordo di un'auto, di una Maserati modificata. Sì, infatti adesso mi trovo in mezzo al mare, in cima a un'automobile, e adesso sono curioso che... Chiamino me, vediamo cosa posso dire. No, ma se in questo momento sei in mezzo al mare sulla macchina? Sì, sì, sì, sì, sono in mezzo al mare. Perché allora consiglio anche agli ascoltatori che fossero a casa di guardare le foto, perché ovviamente in radio è difficile, ma perché questa è una vera automobile, proprio una Maserati. Immaginatevi, correggimi se sbaglio, ma immaginatevi una Maserati che improvvisamente è come se finisse in mezzo al mare e stesse per affondare, invece non affonda, ha un motore dietro e galleggia. E galleggia. Giusto? Sì, sì, sì, sì. Cioè, il merito di quel furbacchione di Archimede è il principio, insomma, dei corti immersi. Ecco, un viaggio che è vero che tu stai realizzando questo viaggio perché vuoi realizzare un sogno che era di tuo padre, fare questo viaggio? Sì, diciamo raccontare l'impresa che avevamo realizzato per lui, quindi era per dare anche un po' di visibilità arrivando alla mostra del cinema al Lido. Solo che il mare mi ha un po' bastonato, cioè non c'è stato sempre meteo favorevole, quindi sono arrivato lungo. Lungo, perché tu sei partito il 6 giugno dalla Spezia e hai proprio fatto il giro costa a costa su questa auto modificata dell'Italia per arrivare in tempo per la mostra del cinema Venezia. Invece quanti giorni di ritardo sei arrivato? Praticamente sono 20 giorni, diciamo, sì, che ho costeggiato il Tirreno e poi l'Adriatico. Poi 20 giorni non è poco. Che posso dire, fa molto strano, perché uno dice: hai una Maserati dalla Spezia a Venezia, ci metti 3 ore e mezza probabilmente. Sì, ma il mare è diverso. Il mare è molto diverso. Tra l'altro poi sono quasi un titolo, perché sono 1000 miglia di navigazione, quindi insomma un po' un record. Però fa lo stesso, perché io... modificando così questa automobile la considero anche un'espressione performativa, no? Un'installazione. Quindi sono a Venezia adesso, probabilmente arriverò a Chioggia e di lì sto pensando di organizzare un'intrusione alla Biennale d'Arte. Che si preparino alla Biennale, perché il festival... sta arrivando l'autonauta. Sì, sì, sono in collegamento. Ma scenderai dall'autonauta o rimarrai rimarrai a bordo? Questa intrusione, come pensi di realizzarla, Marco? Beh, so che c'è il canale che entra proprio dentro all'esposizione, no? Quindi farai un ingresso trionfale sulla Maserati. Un ingresso trionfale, insomma. E poi vediamo cosa succede. Ma funziona anche su strada questa automobile? Per ora è più, diciamo, una barca, però insomma work in progress. Perché quello sarebbe la cosa importante, se no, se devo essere onesto, uno si chiede: ma perché uno dovrebbe prendere una macchina e viaggiare con la macchina invece che con una barca? Certo, se quando tu arrivi, invece che attraccare, semplicemente ti immetti sulla A1 e ti fai dei pezzi di stradine, può essere comodo, giusto? È il concetto di riuso, però, vero? Tu questo volevi fare, il concetto di riuso della Maserati. Sì, sì, appunto, comunque anche un po' del gioco, dell'utopia, di rendere possibile un po' qualcosa che non dovrebbe essere possibile, quindi il contrasto della normalità. Io mi ero segnato una domanda, Marco, che era questa: hai trovato molti rifiuti galleggianti nel tuo viaggio lungo costa? Perché sta diventando un problema quello dei rifiuti di plastica nel mare, sì. Sì, infatti. Ho ascoltato anche un pochettino lì l'intervista di prima, insomma, era molto interessante. Insomma, penso che sia l'unica possibilità per salvare un po' il mare, anche comunque il pianeta, e poi riciclare, perché diciamo che sì, c'erano dei rifiuti, c'erano anche grandi marche che galleggiavano quando fanno gli spot tutte lucidi, e poi invece ti trovi, non so se posso fare, il pacchetto del gelato Magnum. Potresti legarti dietro una grande rete E già che passi tirar su una tutto pulita, dare una mano a quel ragazzo olandese, visto che vuol pulire l'oceano con una nuova tecnologia, una specie di grande rete che a cui rimane attaccata tutta la plastica. Potrebbe essere, vabbè. Potrebbe essere lo spin-off di autonauti.it l'anno prossimo. No, ho appena immaginato un retino da pesca e raccoglie, fare tipo una testimonianza. Però poi insomma avevo anche le mie difficoltà proprio di navigazione, quindi... Ma sei sempre da solo o in macchina? In barca? Come si dice? In macchina, in barca? Non so bene, si potrebbe chiamare una battle mobile. Noi volevamo darti il nostro sostegno perché ci piacciono le imprese che realizzate in questa maniera, le imprese impossibili. Esatto, chiudi il finestrino, occhio che sennò entra acqua. Ciao Marco! Guardare sì, la mia pagina, eventualmente autonauti.it. .it il sito, se no proprio la pagina Facebook, .nauti.y, con la i finale, y. Buon viaggio, dobbiamo chiudere, ciao. Perfetto, giornale radio. Grazie mille. Ci sentiamo dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio avere gli occhi di Paul Newman, le labbra Rocky Horror, i capelli Lenny Kravitz, i muscoli di Batman, la voce di Sinatra, i soldi di Zidane, Ferrari nel garage. Voglio andare alle feste di Briatore, beccare le terine, lasciare le veline. Voglio essere come più di Dio, non l'ho deciso io. L'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Sì, sì, sì. No, no, no, boh, boh, boh, si potrebbe anche dire. Buongiorno Enrico Bertolino. Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao Enrico, sono Carlo. Allora... Ciao Carlo, buongiorno. Boh, boh, boh, perché tu hai in preparazione uno spettacolo che si intitola proprio Perché Boh. Sì, perché boh, perché davanti al dubbio l'unica risposta è il dubbio. Condivido in pieno, se posso dire. Parliamo della riforma costituzionale, sì, sì, sì. Quindi si vota sì, si vota no, però bisogna farsi un'idea, bisogna capire. Ecco, io direi questo, rilassiamoci, perché credo che... Quello sì. Quello, perché qua sono tutti infervorati. Ma più passa il tempo e più diventano, si agitano tutti quanti, perché si vede... Si dice che non bisogna personalizzarlo, non bisogna personalizzare il referendum, e chi lo dice lo personalizza poi. No? Esatto, e soprattutto sembra che in qualunque modo vada sarà un disastro, nel senso che, come giustamente dici quello. Tu, il rischio è anche di personalizzarlo su di noi, nel senso che va bene non personalizzarlo su Renzi, ma nemmeno su di noi, che se vince una delle due parti saremo tutti morti oppure tutti felici, che mi sembra un po' esagerato. No, infatti la cosa su cui ci basiamo in questo tipo di teatro che ci siamo creati e che l'abbiamo chiamato Instant Theater, che abbiamo già fatto a Milano quando c'è stata l'elezione del sindaco. Sala Parisi, no? Prevede di ragionare un attimo sul tema, perché il tema è l'elezione del sindaco, il tema è in questo caso la riforma costituzionale. Per cui cercare di capire innanzitutto che cos'è, di che cosa si occupa, quanti articoli devono essere coinvolti, come... E soprattutto fare un piccolo escurso storico sulle costituzioni, partendo dai comandamenti, al codice di Hammurabi, fino alla Magna Carta. Per la miseria, siete partiti larghi, è il codice di Hammurabi. Siamo andati lunghi. Ma giusto. Perché ci sono previsti dei referendum anche sul codice? No, quello là prevedeva una cosa, che era la legge del taglione, nel senso che... Chiunque facesse male a qualcuno aveva diritto di far male all'altro, cioè se tu ammazzavi un figlio a me, io ti ammazzavo un figlio a te. E poi soltanto gli schiavi invece venivano pagati a peso d'oro, po' quello che è successo all'Ilva e alla Thyssen. Queste sì che erano cose, diciamo, che avevano un'influenza diretta sulla vita delle persone, un po' meno. Queste avevano un'influenza forte, ecco, sì. Poi, no, comunque la cosa che abbiamo trovato analizzando tutte le costituzioni, sì, che è interessante, è che il popolo è chiamato sovrano ovunque, ma che poi alla fine erano sempre accordi a livello di potere tra chiesa, baroni e re. La Magna Carta era un accordo di quel tipo lì. Il popolo sovrano doveva semplicemente, all'ordine del re, andare in guerra senza disturbare. Era un po' tutto magna-magna. Esatto. Era molto magna-magna la Magna Carta. Sì. E ecco, metteremo l'unica cosa che faremo poi, ragazzi, sì. Poi chiaro, non faremo solo storia, perché teatro storico è un'altra cosa. Cercheremo di mettere, di fare i centoni sono col maestro Teo Ciavarella, che è il mio stupendo pianista. Cercheremo di fare questo, scritto da me, Luca Bottura, con Massimo Lavone, che fa la regia. Faremo una specie di centoniamo, e prendiamo delle canzoni e le trasformiamo. Per esempio, Taglione diventa Quaglione, di Carosone, e poi faremo Perché no, Perché boh, che è sul testo di Lucio Battisti. Anche perché la gente vorrebbe divertirsi, suppongo, un attimo di relax, come dicevate voi. Sì, perché veramente sembra che è diventato, come diceva prima Carlo, una questione. L'altra sera stavo guardando in televisione. La lotta è dura. Travaglio contro Dalimonte alla 7, a 8:30, e Travaglio si agitava tantissimo, storceva la testa, rideva, si muoveva. Mi è venuta un'ansia terrificante. Ma la televisione sta trasmettendo un po' quest'ansia qua, perché nel senso. Che si ha paura, cioè si ha paura che se dici no, cioè, ti succede qualcosa a casa. Se dici sì, poi dopo ti insultano al bar. Cioè, invece sì, stanno creando un po' due figure. Cioè, il no è un pochino più alla page, un pochino più alla moda, perché da Baricaderi alla Travaglio. Se dici sì, sembri un po' il secchione, esatto, che dice sì. Se dici no, sei Che Guevara. Se dici sì, però sei un pirla. È come quando ti metti con la sciarpa della tua squadra e sbagli curva. Questa roba qua. E io questa roba qua non vorrei. Perché... Ecco, ma bisogna venire con carta e penna a prendere appunti. No. Anzi, la cosa che vorremmo fare poi alla fine, che faremo, è per dimostrare che poi la musica aiuta molto, e gli italiani possono un popolo di gente che si ricorda, cioè, che se siamo riusciti a insegnare l'inno nazionale a Cassano, noi ce la possiamo fare con la musica. Allora musicheremo alcuni articoli della Costituzione per far sì che gli italiani se ne ricordino che il tema è la Costituzione, sì. Con le canzoni dei Pooh. Sì, perché poi la cosa bellissimo. No, perché la cosa figa è che gli italiani si appassionano al referendum sulla Costituzione. Senti moltissimi dire: "Ah, ma non bisogna toccare la Costituzione, mi raccomando". Però poi se li chiedi, bravo, non sanno nulla. Ma è così. Però non va toccato. Ci sono 60 milioni ormai di costituzionalisti, no, cioè, un po' come l'allenatore della nazionale. Sai cosa bisogna dirgli? Se vuoi ricordare quanti articoli sono, uno meno i caratteri di Twitter, cioè sono 140, sono 139. Uno meno i caratteri di Twitter. Senti Enrico, ma ho letto che in realtà alla fine dello spettacolo inviterete anche dei politici a parlare, o li intervisterai, certo. Non so esattamente come. Sì, ci sarà un'intervista vestita, come viene chiamata, poi Carlo sa, essendo un teatrante, che cosa vuol dire questo lavoro dell'intervista vestita. Faremo un'intervista, certo. Semiseria, ma con la di fotografie, video e coinvolgimenti diretti a due esponenti, uno del sì e uno del no, per cui gli esponenti verranno, parleranno con me e poi avranno anche magari modo di fare un ultimo appello, un appello alla platea. Ah, quindi due perché... ogni sera? Noi volevamo farle uno per sera, però avendo una sera a disposizione adesso, perché questo teatro nasce all'ultimo momento, dobbiamo anche capire quali sono le disponibilità dei teatri. Diciamo, una data. Ce l'avete una data certa, il 4 o il 5? Abbiamo il 4, data certa, il 4 ottobre al Brancaccio di Roma. Perfetto. Beh, che è una buona data, visto che il referendum è il 4 dicembre, esattamente due mesi prima. Siamo due mesi prima, poi dopo ci saranno teatri che vogliono ancora farlo in altre città d'Italia, noi ci sposteremo, perché come Instant Theater siamo un po' un baraccone tipo il circo, no? Se c'è da tirare su la tenda, la tiriamo su e andiamo. Certo. L'importante è il politico disponibile. Allora, noi dovremmo avere, se non sbaglio, Matteo Salvini per il no, e Maurizio Martina, se confermeranno, perché poi magari all'ultimo momento vanno in missione, spariscono, e ci sarà per il sì. Due Lombard comunque, tutti e due. E saremo tutti e tre Lombardi in trasferta a Roma, per cui giochiamo in campo neutro, dopo Roma-Inter, peraltro, per cui non so come sarà. Ah, fantastico, un cortocircuito perfetto. Allora, fatemi ricordare solo una cosa, il numero verde 800-24-00-24 per gli ascoltatori, se volete intervenire sulla Costituzione, se volete intervenire invece sulla... quello a cui siamo partiti stamattina, il sindaco di Olbia che ha messo le foto di quelli che buttano la spazzatura fuori da Cassonetto, come invece si dovrebbe fare, chiamateci pure, e se anche volete raccontarci, partecipare al gioco, quindi la vostra più grande, importante opera inutile per l'Italia, che possiamo chiedere anche a Enrico Bertolino, secondo lui quale potrebbe essere un'opera. Siamo partiti dal ponte sullo stretto, che come ciclicamente torna fuori come opera inutile, e quindi ci stiamo chiedendo quali altre altre opere inutili, per esempio, che possono interessare a un'unica persona, però con le quali colpire tutti gli altri 60 milioni di italiani. Tipo la signora che ha chiamato dal Lago Maggiore dicendo che voleva, esatto, una cabinovia per andare da una parte all'altra del lago perché il marito soffre di... dei 20 minuti di traghetto, minuti che traghetto. È un traghetto che sembra di andare... Una cabinovia per questo. Vabbè, allora a questo punto chiedo anch'io qualche cosa, chiedo un ipermercato sotto casa perché sono stufo di camminare. Esatto, cose qua. questo, il punto è esattamente questo. Oppure il traforo, no, io no. Ho proposto il traforo Milano Varigotti perché, sì, signora mia, sì, per evitare. Cioè, sono troppi. Ma una volta non c'era già quello che voleva abbattere il Turchino, ve lo ricordate, no? C'è la che andò da Mike Buongiorno, che per togliere la nebbia dalla pianura, sì, voleva tirare giù una collina. Ah, fantastico. Forse questa è ancora meglio, questa è ancora meglio, direi. Tirare allora via la nebbia che ti dà fastidio, buttiamo giù una collina. Però poi alla fine tu voti sì o voti no al referendum? Questo... No, io fino all'ultimo non mi... Io mi schiero di solito con quelli che vincono. Ah, quindi aspetti il risultato finale. Non prendo mai posizione prima perché c'è un problema del carro dei vincenti. Cioè, sai che una volta bisognava salire e saltare sul carro dei vincenti. Sì. Adesso non solo devi prenderlo al volo, ma se lo perdi, quello fa retromarcia e ti tira sotto. Per cui io... è la nuova teoria del carro dei vincenti. Sì, sì. Va bene, staremo a vedere. Sbanda paurosamente quel carro. E quindi possiamo dire che nascono i comitati del Bo, giusto? Sì, io da questo momento, se volete aderire al comitato del Bo, che sarebbe le ragioni del forse, anche mettetele come volete. Che poi penso che siano quelle del 98% degli italiani che ancora non è un hanno, mio timore, al di là dei fan, ma noi, delle due parti. Sì. Noi vorremmo anche poi approfittare, perché nel frattempo, scherzando e ridendo, però due o tre articoli li leggeremo, diremo quanti sono, diremo quando è stata promulgata, diremo che ha 68 anni questa Costituzione. Almeno se ne parla un po', almeno si saprà qualcosa in più su questa amata Costituzione, difesa, amata e forse anche modificata, chissà. Veremo di sfruttamento della Costituzione. Certo, Zagrebelsky verrà a vedere lo spettacolo e ti farà le pulci? Ma guarda, Zagrebelsky per la metà degli italiani è un mediano della Fiorentina, per cui noi dovremmo cercare di capire se venisse un costituzionalista a farci le pulci sarebbe ancora meglio, così come il politico o anche Marielle Naboschi, che inviterei volentieri a venire a darci una giusta collocazione, cioè ci dice: ragazzi, attenzione che questo non è uno scherzo, ci abbiamo lavorato mesi, conseguentemente siamo aperti a qualsiasi persona che voglia salire sul palco e garantiamo nessun agguato, attentato, nessuna faccia di travaglio arrabbiato, ecco. Che già qualcosa, va bene, grazie Enrico Bertolino. Grazie mille. Perché voi il 4 ottobre al Brancaccio di Roma, forse poi con qualche altra replica staremo a vedere se funzionerà, un'occasione per riflettere sulla Costituzione anche in maniera rilassata, che non guasta. E approfittare di questa forma di teatro, l'Instant Theater, un teatro istantaneo. Traffico. JP Morgan Asset Management vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. I was dying those days, I was losing the way. I was looking for a train just to get away. Blame the faith, not carried away. And so my life passed me by. Every day, every time, I ought to fall on the line, feeling worse and worse. When the challenge spring, every day was a scene, and a Sunday I got shown another way. From truth when you're wasting your youth, and what you have had so like to break through. You have to crawl cause you feel so small, and you're up against the wall. Every lie, every fall makes you closer to the fall into your final stroke. So use a such cold road, there's a fork in the road, but the words are not the roads, so now we play my part. If we were like a phoenix, we can come back stronger. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Like a Phoenix dei Midnight Train. Come sapete noi stiamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei cantautori, dei musicisti o anche dei semplici ascoltatori e sentite una canzone, cioè una canzone che vi piace, che pensate che racchiuda bene il concetto di Si può fare, beh, vi chiediamo di segnalarcela. Infatti questa che abbiamo sentito è una canzone che parla delle seconde possibilità per le donne detenute, che ci è stata suggerita da Luciana, che è la fondatrice dell'associazione Made in Carcere. Quindi inviateci i vostri Si può fare in musica alla nostra mail sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili social, quindi su Facebook Si può fare trattino Radio 24 oppure su Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Cliccate mi piace sulla pagina Facebook, seguiteci su Twitter, rimarrete sempre aggiornati. È imperdibile l'aggiornamento di Si può fare, di tutte le nostre notizie, anche perché io sono pagato a like, quindi esatto, avrei bisogno dei like sulla pagina. Allora, questa settimana ci lascia in eredità anche due, una notizia di cui parleremo più avanti perché in realtà è un annuncio ma si sta per compiere, è una bellissima iniziativa a Pompei, di scavi archeologici di Pompei che insomma sotto la sapiente guida di Osanna, il sovrintendente, si stanno rilanciando, stanno facendo tutti i lavori per la messa in sicurezza, stanno anche completando i percorsi per i disabili, perché a Pompei in carrozzina non si poteva praticamente entrare, era impossibile. Adesso stanno facendo i passaggi di ferro, entro Natale saranno pronti. Una bellissima notizia. Mi sembra importante anche perché ultimamente, sì, giustamente l'ha detto anche il nostro Presidente della Repubblica, che i disabili fanno le Paralimpiadi tutti i giorni. Dopo quello che è accaduto, insomma, dopo il grande successo in realtà della squadra italiana alle Paralimpiadi, giustamente mi sembra un bel movimento di tante persone che dicono sì sì, molto bello, bravi i nostri atleti, però noi anche tutti i giorni, anche gli altri 364 giorni sarebbe bene che le barriere architettoniche non ci fossero. L'altra notizia riguarda voi interisti, cari amici, perché oggi la Gazzetta scrive quasi quasi torno e parla di Moratti. Moratti, anche questo non si può fare, sembra che sia tentato di non lo so se sia un si può fare, perché se è così è uno scoop. Meglio non farlo. È un si può fare o non si può fare. Allora, Ada da Como, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccola qua, ecco. Allora, cosa volevi intervenire? Io vorrei fare un ponte sopra l'ospedale di Como, quello in centro. No, ha un ponte, più che un ponte pedonale. Lo facciamo fare da Cristo, visto che siamo lì a Como, che è appena venuto con la sua opera. Perfetto. E allora, adesso praticamente, quando io arrivo in fondo alla mia strada per andare in centro, c'è l'ospedale che taglia tutta la strada, perché c'è un isolato di ospedale, quindi sono costretta ad andare a destra o a sinistra per poi riprendere dopo l'isolato la mia strada dall'altra parte. Cioè, mi piacerebbe un bellissimo ponte pedonale, anzi forse una scala mobile molto meglio, dai. Certo. Così, una scala mobile. Ma mi scusi, lei ci parla deve, sul serio, deve, però esatto, Ada, nel senso che ci deve spiegare, noi non conoscendo con questa precisione l'urbanistica di Como, forse la cosa che sta proponendo in realtà è un progetto sensato più che un'opera inutile. Beh, certo, potrebbe esserlo per quelli che vengono giù da dove vediamo noi, sì, in pratica la nostra strada è interrotta completamente da un isolato di ospedale, un bellissimo ospedale, niente da dire per l'ospedale, però vedete, che lei deve circumnavigare, certo, invece vorrebbe poterci passare sopra. Anzi, già che ci siamo, siccome dall'altra parte c'è pure la ferrovia, facciamolo oltre la ferrovia, così arriviamo al centro storico direttamente, dai. Perfetto. Ada, vuole un ponte da casa sua a Milano, direi. È entrata nello spirito della nostra richiesta, che era quella di proporre grandi opere, anche piccole opere inutili o molto personali, tra virgolette, perché questa è la dimostrazione che l'Italia ha bisogno di tantissime opere in realtà, insieme al ponte sullo stretto, che naturalmente si farà domani, iniziano i lavori, lo sapevi Carlo, iniziano domani proprio. Ma avevo capito dopo, appena finita la Salerno-Reggio Calabria. Esatto. Abramo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Grazie a lei. Niente, la mia proposta provocatoria che avevo lasciato, sì, era quella di richiamare la responsabilità tutti i parlamentari, no, perché è vero che la vostra richiesta è di un'opera inutile, ecco, ma a questo punto di opere inutili credo che l'Italia sia già piena, forse bisogna di avere qualche opera utile. Giusto, giusto. L'ha presa sul serio, Abramo. In effetti... E qual è precisamente la proposta? Beh, la proposta a questo punto non è una proposta inutile, ma è quella di richiamare la responsabilità di tutti i parlamentari che dopo 5-10 anni, se non sono riusciti a fare proposte o dare un valore alla loro attività in Parlamento, Beh, credo che sia utile che vadano a casa. E questa è la grande opera, che lei si immagina, far lavorare i parlamentari. Esatto, posso dire che forse è la più utopica che abbiamo sentito fino adesso, nel senso che credo che sia più facile fare un ponte sopra l'ospedale di Como piuttosto che chiedere a tutti i nostri parlamentari di farsi un preciso esame di coscienza e nel caso che abbiano sbagliato di dimettersi. Comunque, grazie Abramo, buona giornata. Roberto da Milano, la chiudiamo qua. Ah, tra l'altro, ascoltatori, tra poco Crowd Me Up, la rubrica sul crowdfunding, e se volete giocare con noi e fare da giurati, rimanete in linea. Roberto, prego. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io volevo intervenire in merito a ciò che ha fatto il sindaco di Olbia, per dire che sono perfettamente d'accordo su quello che lui sta facendo. Ricordiamolo per gli ascoltatori distratti che non erano in linea alle 8:40. Sì, lui sta mettendo in atto una serie di iniziative, insomma, per identificare, seguire queste persone che buttano rifiuti, imbrattano, eccetera. Insomma. Mostrare, lo spiego rapidissimamente, mostrare su un camion vela in giro per la città, come se fossero delle pubblicità, le foto di coloro che sbagliano nella differenziata o sporcano buttano roba in giro. Illegalmente la spazzatura. Prego. Allora, io volevo fare un esempio di qualcosa. Voi avete citato il condomino che butta rifiuti non correttamente, sì, nel caso dell'umido, eccetera, perché poi vi tocca pagare la multa. Io invece ho fatto l'opposto, ho chiamato i vigili affinché venissero a darci delle multe in condominio, perché ci sono dei rifiuti che portano chiaramente la firma di chi quei rifiuti li ha messi lì in modo sbagliato. L'amano nel suo condominio? Quindi... L'amano molto nel suo condominio? Ma no, ma guardi, ma siamo tutti d'accordo, c'è qualcuno semplicemente che non si vuole, insomma, mettere in mente che... Adeguare. Quindi Roberto, lei è un delatore. No, ma non sono un delatore, io non ho fatto nome, ho detto venite a vedere un attimo, dateci una multa, poi noi sappiamo, le dico che quei rifiuti hanno la firma, faccio un esempio, se io faccio il barbiere e butto nel sacco dell'umido... dei capelli? Cosmetici, i capelli, è chiaro che quel sacchetto di rifiuti è mio. Ma perché non vanno nell'umido i capelli? Capelli tagliati? No, i capelli probabilmente sì, ma se ci butto anche i flaconi dello shampoo, le allora bottine, no, certo, questo è allora chiaro. La cosa cambia, capito? Cos'è? Cioè mettono tutto insieme nell'umido, ecco perché. Invece non sono riuscito a farli venire, perché in quel caso la multa l'avremmo fatta pagare a chi quei rifiuti li ha buttati, insomma. Era un, diciamo, ma poi sono venuti a fare la multa quelli del non comune? Non sono venuti? No, quelli dell'AMSA dicono che nel loro competenza, l'AMSA, la società che gestisce i rifiuti, non è nostra competenza, deve sentire i vigili. I vigili no, perché non possiamo entrare nel vostro locale. Va bene, Milano non è Olbia, da questo punto di vista. Roberto, resta in linea con noi però, perché tra poco ti facciamo fare anche da giurato per il crowdfunding, va bene? Sì, grazie. Vai, evviva. Facciamo anche Gianluca, vai prima di andare in pausa, da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Su cosa vuole intervenire Gianluca? Sì, su un'opera inutile, assolutamente. Quale? Dunque, io pensavo di eliminare quei 5 milioni di rotonde che ci sono in Italia e farne una unica tipo anello totale. Cioè che tocchi praticamente Venezia, Torino, Palermo, così, una rotondona. Dalle Alpi alla Sicilia, passando anche attraverso il mare, quindi si ricollegherebbe il fatto della macchina che va sia sull'acqua che sull'asfalto. E anche una rotonda sul mare, direi, così proprio anche abbiamo fatto filotto. Perfetto. Abbiamo capito che non ti piacciono le rotonde, Gianluca, è vero? No, ma una unica, gentilmente, una unica, poi con tutte le varie deviazioni, però un bel anello che dal satellite si vede che è bellissimo, poi anche esteticamente. Ma le rotonde, diventano una specie di circuito. Non hanno contribuito a diminuire gli incidenti, gli incroci? No, assolutamente, hanno peggiorato tassativamente, però un bel circuito, una rotonda gigante di 18 corsie, bellissima. A me il progetto piace molto, se devo dire, mi sembra perfetto. Cioè che l'Italia diventi sostanzialmente la rotonda d'Europa. Esatto. Gianluca, anche tu, se vuoi restare con noi, adesso andiamo in pausa e fare il giurato di Crowd Me Up tra poco. Sei il benvenuto. Così chiediamo agli ascoltatori di. Non ho capito cosa sia, però lo faccio. Non ti preoccupare nemmeno noi. È questo lo spirito. Crowd Me Up tra poco. Due progetti tratti dalla piattaforma Apple, di progetti che cercano un aiuto dal basso, un finanziamento alla loro idea. E chiediamo agli ascoltatori di giudicare queste idee e di metterle così alla prova. Torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, abbiamo cercato su Apple due progetti in cerca a loro volta di finanziatore. Abbiamo trovato due idee imprenditoriali molto interessanti, che si fondano tutte e due sulla sharing economy. Tra l'altro dovranno sfidarsi per convincere in diretta i nostri giurati, che sono Roberto da Milano. Buongiorno di nuovo, Roberto. Sì, buongiorno, ci sono. Eccolo qua, Gianluca da Parma. Ci sono. Abbiamo anche lui e poi abbiamo anche Lia, sempre da Milano. Sì, buongiorno. Eccola qua, benissimo. Allora rimanete belli concentrati, perché adesso andiamo a presentare i due progetti. Cominciamo con il primo progetto. Si chiama Solunch e si tratta di una piattaforma che mette in contatto chi è a casa all'ora di pranzo e sta cucinando ai fornelli con chi invece lavora nelle vicinanze e vuole mangiare proprio come se fosse a casa propria. In Italia ogni giorno 12 milioni di persone mangiano fuori casa in pausa pranzo, mentre 17 milioni di persone sono a casa che cucinano. E Solunch vuole farle incontrare, proprio metterle in collegamento, ma per finanziare lo sviluppo di questa piattaforma ha bisogno di 20.000 euro. E la portavoce del progetto è Luisa Galbiati, che è con noi, la cofondatrice di Solunch. Buongiorno. Luisa? Luisa? Ce l'abbiamo? È a pranzo, forse. Ha usato la app e si è incrociata a pranzo. Non ce l'abbiamo. È a merenda. Allora, un momento, fra poco ce l'avremo. Fra poco ce l'avremo. Così come tra poco dovremmo avere anche l'altro progetto, a questo punto annunciamolo, così facciamo un po' di par condicio. Toc Toc Box, una piattaforma digitale che mette in contatto chi vuol spedire un pacco e chi viaggia e vuole ridurre invece le spese. In pratica chi fa parte della community e viaggia verso una determinata destinazione offre un passaggio, ma non alle persone, ma agli oggetti di chi vuole spedire. E allora, però, siccome abbiamo un problema con le linee telefoniche, in questo momento non abbiamo in collegamento i due fondatori delle due startup. E questo quindi, è... cari ascoltatori, che dobbiamo fare? Fatevene un'idea, andate sul sito di Apple o anche su quello Crowd Me Up di Radio 24 e trovate tutti i dettagli di queste due storie. Diciamo che di questa seconda storia il traguardo che invece loro si sono posti, i ragazzi di Toc Toc Box, è di raggiungere 10.000 euro. Quindi nel primo progetto 20.000 euro per fare un'app per mettere in contatto le persone che mangiano fuori casa ma amerebbero mangiare in casa, e le persone che cucinano in casa e forse sono da sole, quindi sarebbero disposte ad ospitare le persone che in zona avrebbero piacere di mangiare in una casa, e loro cercano 20.000 euro. E questo invece è il progetto di Toc Toc Box, ovvero io mi sposto, devo andare da qualche parte, io devo proprio spedire un pacco in quel posto lì, invece che darlo alle poste lo do a questa persona che già ci va con la macchina e lei mi trasporta il mio oggetto. Allora, in attesa forse di avere in collegamento i due fondatori delle due startup, i nostri giurati Lia, Roberto e Gianluca da Milano e da Parma sono i nostri ascoltatori. Tutto chiaro? Adesso ci siamo. Bravi. Fra poco dovremmo farvi fare l'appello, forse se ce la facciamo, da parte dei due ospiti, per spiegare ancora meglio di che cosa si tratta. Crowd Me Up è una rubrica che stiamo facendo da qualche settimana, nella quale vi proponiamo ogni settimana due progetti che cercano il vostro aiuto. Abbiamo la prima ospite, che è la Galbiati Luisa. Sì, eccola. Ciao, qua. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Abbiamo fatto già le presentazioni mentre non eri in onda, perché abbiamo avuto... ma io vi ascoltavo. Brava, quindi sai tutto. Allora, hai un minuto per lanciare il tuo appello e convincere i nostri tre giudici che ti ascoltano in diretta. Allora, il nostro progetto l'avete già raccontato voi, perché le persone dovrebbero sostenere il nostro progetto. Perché con Solunch tutti noi lavoriamo fuori casa, abbiamo qualche volta voluto mangiare in pausa pranzo come a casa nostra, perché tutti abbiamo un'amica casalinga, un cugino freelance che lavora a casa, oppure un vicino, un parente che ha perso il lavoro e che quindi avrebbero piacere avere nuove relazioni sociali più ampie, e soprattutto arrotondare un po'. Magari hanno pensato di mettere una stanza su Airbnb ma non ne hanno lo spazio. Con Solunch, in un modo nuovo, facciamo quello che tutti i giorni facciamo normalmente senza stravolgerci la vita. Abbiamo bisogno di sostegno proprio per rendere questo nuovo modo di migliorarci la vita più facile per tutti. Ah, bravissima, non hai sfruttato nemmeno tutto il minuto che avevi a disposizione. Sei stata... Ma io vado avanti, sei stata ancora più veloce e sei riuscita a spiegare perfettamente il senso dell'iniziativa. Allora, adesso passiamo la palla a Ruggero Fede di Toc Toc Box. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo anche lui, meno male. Anche con te, Ruggero, l'abbiamo spiegato noi mentre non eravate in onda, la sintesi del progetto, però anche tu hai un minuto per convincere i nostri giurati. Sì, Toc Toc Box è un progetto nato da 4 ventenni e, come avete anticipato, è una piattaforma collaborativa che mette in contatto chi deve spedire un qualsiasi oggetto con chi viaggia nella stessa direzione. Possiamo paragonarlo appunto al più famoso BlaBlaCar, ma nel nostro caso lo spazio in auto o in furgone viene condiviso con un oggetto piuttosto che una persona. Ecco, la parola oggetto potrebbe suonare come qualcosa di inanimato, freddo, e Toc Toc Box potrebbe apparire come un sito di spedizioni al pari di DHL o Bartolini. Beh, non è così, lo abbiamo vissuto appunto in questi primi mesi in cui abbiamo usato l'app. Dietro ogni oggetto ci sono sempre delle persone con storie diverse che amano condividere le loro esperienze, magari ottenendo qualcosa in cambio. Con Toc Toc Box, appunto, chi viaggia e porta un oggetto con sé ottiene un rimborso per le spese di viaggio. La persona che spedisce, invece, lo fa in maniera più semplice ed economica. Come sapete, siamo qui in radio perché è appena partita la nostra campagna su Appela. Grazie al sostegno di molti vogliamo sviluppare il nuovo sito web e ampliare l'utilizzo di Toc Toc Box a tutti i dispositivi mobili o desktop. Allo stesso tempo vogliamo diffondere quanto più possibile il nostro progetto e far sapere a tutti che con Toc Toc Box spedire diventa più semplice e viaggiare è più conveniente. Magnifico! Hai un po' sforato, ma va bene. Ci sta. Ma non è grave. Allora, voglio chiedere a tutti e due se avete in mente delle ricompense particolari per i finanziatori, così completiamo. Proseguiamo con te, Ruggero Fede di Toc Toc Box. Qual è la ricompensa per chi vi darà una donazione? Abbiamo diversi gadget, tra cui una t-shirt fantastica creata da un'altra startup italiana. E invece, per chi volesse partecipare con un importo maggiore, proponiamo delle attività di co-marketing e reciproca visibilità, proprio per perseguire quello spirito di collaborazione al centro del nostro progetto. Perfetto. Luisa Galbiati, invece, di Solancio, avete immaginato qualcosa anche voi come ricompensa? Certo, noi abbiamo immaginato, proprio nell'ottica dello spirito di questa comunità che vuole migliorare le relazioni sociali e creare proprio uno spirito di condivisione di comunità, a dei premi e dei reward diversi a seconda di quello che è il contributo che una persona intende dare, tutti legati comunque in qualche modo al benessere, alla cucina condivisa. Due uova al tegamino. No, assolutamente. Le ricette che tutti noi facciamo a casa, trasformate in un meraviglioso ricettario dalla nostra nutrizionista che dà qualche suggerimento. Quindi, molto pratico per trasformare in un momento un bel ricettario, per esempio. Oppure un libro. Un'altra cosa meravigliosa, attraverso una piattaforma di giovani scrittori, Mitel, in cui è stato lanciato un contest dedicato appunto alla cucina, al momento della cucina, della condivisione, della pausa pranzo. Chi dà il suo contributo può interagire con questi scrittori, poi votare i racconti preferiti e crearne un libro stampato che poi riceverà. Va bene, ma articolata questa ricompensa. Allora, adesso è il vostro momento, cari ascoltatori, che siete rimasti lì fedeli come una giuria, come si deve. Roberto da Milano, cominciamo con te. Quale dei due progetti ti ha convinto di più e perché? Ma diciamo quello del trasporto lì, perché lo vedo, per quanto mi riguarda personalmente, di più al limite immediata applicazione per me personalmente, insomma, per la mia situazione eccetera, così poi non so. Toc Toc Box, perfetto, benissimo. Questo era il voto di Roberto, perché lo vede come una cosa più vicina a sé. Gianluca da Parma. Allora, io sono un po' combattuto tra tutte e due le idee, perché la prima, quella della cucina, accetterei soltanto e mi convince solo ad una condizione, che ad essere invitato a pranzo o cena sia una bella ragazza e tutti i giorni diversa. Ah, vabbè, ma tu vuoi molto di più. Ci sono altre app che si occupano di incontri sentimentali, però, vorrei così, sia per maschi sia per femmine. Ah, addirittura. La seconda, invece, accetterei solo trasporto valori, oggetti di grande valore, e oppure sex toys a domicilio per recapitare all'amante l'oggetto proibito. Che è una fissazione la tua. Ma qui tu sei un po' come Bertolino. Voti boh. Voto boh. Va bene, ci sta anche il voto boh. Ma sì, un mezzo e un mezzo. Mezzo e mezzo. Ascoltimi, scusate un attimo. Sì. solo un'informazione, posso chiudere o devo rimanere per il voto finale? No, puoi chiudere tranquillamente perché il tuo bolo lo hai già dato, quindi vai. Corri nella tua rotonda preferita, che lo sappiamo che sei un appassionato di rotonde. Allora, Lia invece da Milano, l'ultima nostra ascoltatrice giurata, cosa ti ha convinto di più tra questi due progetti, Solange e Tok Tok Box? Ma dunque, tra i due forse Solange, nel senso che Tok Tok Box, io non avendo occasione di mandare pacchi, non ho esperienza, insomma, sui costi. Invece un bel pranzo condiviso. Un pranzo condiviso potrebbe essere una cosa carina, anche se la vedo un po' complicata perché molti hanno la pausa pranzo neanche di un'ora, quindi bisogna coordinare gli orari, avere tutto pronto. Ma è per questo che c'è l'app? Perché sennò effettivamente sarebbe difficilissimo. Ecco, l'app ti serve a sbrogliare. Io non sono andata a leggermi tutte le cose, dire, perché ero qui al telefono. Comunque, ma ci mancherebbe. Il voto di Lia va a Solange. Sì. E a questo punto... E per la prima volta abbiamo un pareggio che è incredibile con tre giurati. Sarebbe impossibile, ma siccome noi siamo magnanimi, abbiamo accettato anche il mezzo voto. E mezzo versus uno e mezzo. E allora, Tok Tok Box con Ruggero Fede e Solange con Luisa Galbiati. Vi portate a casa tutte e due una promozione. E quindi complimenti, grazie per essere stati con noi, complimenti. Grazie a voi dell'ospitalità. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Trovate tutti i dettagli naturalmente di questi due progetti su Appela, ma anche su Cloud Me Up, la sezione del sito di Radio 24 e di Si Può Fare dedicata proprio a Cloud Me Up. Lia resta in linea con noi perché forse vuole fare anche il suo intervento. La sentiamo subito dopo, la nostra giurata. Dopo le informazioni sul traffico 800 24 00 24. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Appela. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Happy birthday, caro Dylan Dog, che compie 30 anni. 30 anni. È la settimana dei compleanni, comunque, questa. È vero, Berlusconi, tutti. Il 29 settembre. Oggi Dylan Dog, che in realtà il 26 settembre del 1986 usciva il numero 1 di Dylan Dog. Eravamo giovani e belli. Io me lo ricordo, molto bene, perché è un fumetto amatissimo. All'inizio ha fatto un po' fatica, poi è diventato un fumetto di culto assolutamente. Ha chi ha il numero 1 e il 26 settembre del 1986 è uscito di casa ed è andato in edicola a comprarlo. Ha in mano un gruzzoletto, perché comunque poi ci sono state varie ristampe, tutti i numeri 1 hanno un proprio valore, ma ovviamente il primissimo numero 1 vale tanto. Questo anniversario lo festeggiamo anche noi di Radio 24 insieme alla Bonelli Editore, e per parlarne abbiamo convocato niente po' di meno che il direttore editoriale Michele Masiero. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io ce l'ho il numero uno. L'ho comprato in edicola quel giorno. Questo è bello. E quindi solo dopo è diventato direttore editoriale, giusto? Sì, qualche anno dopo, sì, diversi anni dopo. Però ha fatto curriculum, arrivare al momento del colloquio con il numero uno di Landog, ha fatto... Sì, sì. Io sono un appassionato e ricordo che dopo Dylan Dog, siccome appunto era diventata anche una moda e si sapeva che il numero uno valeva tanto, io ricordo che andavo a comprare tutti i numeri uno, e quindi ho il numero uno di Nathan Never, me lo ricordo benissimo, e ero un forte lettore anche di Nick Ryder, e quindi andavo a prendere il numero uno e ovviamente... Ma è vero che vale molto il numero uno? Sì, non come quello di Dylan Dog, però... Il numero uno di Dylan Dog vale... Quanto vale? Quanto può valere? Sinceramente non lo so, perché noi anzi abbiamo fatto in modo di ristamparlo sempre, appunto, perché tutti potessero comprarlo al prezzo da edicole. Certo. Noi speriamo di avere dei lettori che non si limitino al numero uno, però sennò... No, io sono andato avanti su tutte le collezioni. Allora, spieghiamo bene in cosa consiste questo anniversario, e soprattutto oggi alle 15 ci sarà la prima puntata di... Di un radiodramma, certo, chiamiamolo I fumetti in radio. Abbiamo fatto questo esperimento strano, grazie a voi che ci ospitate, e sono otto storie di Dylan Dog scritte dal suo creatore Tiziano Scravi, che ripercorrono un po' i 30 anni di vita editoriale. Quindi, la prima che va in onda oggi è proprio il numero uno, L'alba dei morti viventi. Quindi chi se la registra oggi, la poi dopo varrà moltissimo, giusto? Esatto, sì, farà curriculum. Farà curriculum, giusto. Un futuro. E si arriverà fino all'ultima storia che uscirà in edicola fra un mese, e che è il ritorno alla scrittura di Tiziano Sclavi dopo 9 anni. E infatti la storia si intitola proprio Dopo un lungo silenzio. Certo. Questa è una notiziona, in realtà, è veramente una notiziona, bomba, sì, perché Tiziano Scravi è inventore di Dylan Dog, poi in realtà da 9 anni non scriveva più le storie, quindi è il suo ritorno, e noi siamo tutti felicissimi. Sì, è vero, e fa parte delle nostre celebrazioni, insomma uscirà questo album il mese prossimo. Quindi si sentiranno le voci dei protagonisti, in particolare di Dylan Dog. Esatto, e qui la cosa complicata è questa, come dicevamo, perché il fatto di avere, ogni lettore immagino abbia una sua voce in testa per i vari protagonisti, certo, no? E noi gliel'abbiamo data, quindi speriamo di avere centrato. Di averla azzeccata, certo. È un po' come quando si fanno i film dei fumetti, quindi è sempre un'operazione rischiosa, però il fatto di scegliere la radio è una cosa molto, molto bella, e secondo me poi proprio per l'indagatore come Dylan Dog mi sembra che la radio sia un mezzo molto azzeccato. Direi proprio di sì, senz'altro, anche perché lui è un uomo d'altri tempi, no? Come si dice. Esatto, quindi, esatto. È un po' refrattario alle nuove tecnologie, ma la radio... Ma ho letto che prima del numero del ritorno di Tiziano Sclavi, titolato Dopo un lungo silenzio, che è il numero 362 di Dylan Dog, invece esce il numero 361, Mater Dolorosa, che avrà una copertina di Zero Calcare, è vero? Allora, il Mater Dolorosa è l'album che festeggia proprio il trentennale, è una storia a colori ed è uscita un paio di giorni fa in edicola. Sempre il 29 settembre. Esatto, e questa di Zero Calcare invece è un'edizione variant, come si dice oggi, certo, di questo stesso albo, che sarà in vendita a Lucca Comics and Games alla fine di ottobre. Quindi non correte adesso tutti nella vostra edicola chiedendo la copertina di Zero Calcare. Cioè, correte, ma non avrete ancora la copertina di Zero Calcare. Esatto. La copertina di Zero Calcare arriva fra un mese. Giustamente il direttore editoriale mi ha corretto, certo, su non andate in edicola. Ha detto, ma cosa sta dicendo? No, andate in edicola subito. E soprattutto andate, rimanete collegati con Radio 24 fino alle 15, oppure ascoltate alle 15, perché per la prima volta, o forse non so se è esattamente la prima volta, si sentirà la voce di Dylan Dog uscire dagli altoparlanti, si dice, no, dalle casse delle vostre radio, per il numero uno di numero Dylan uno Dog di questo appuntamento molto radiodrama particolare. Grazie Michele Masiero, grazie per essere stato con noi. Grazie il a voi. Direttore grazie mille. Bonelli, editore. Questo era l'appuntamento per festeggiare i 30 anni di Dylan Dog. Noi abbiamo Lia da Milano, che però non riusciamo a fare intervenire. Lia, perdonaci perché siamo andati lunghi, ti dovevamo un intervento, ci sentiamo magari domani, se ne ha voglia la richiamiamo l'ascoltatrice, e dobbiamo anche dire chi vince il gioco di oggi. Elena da Milano, che ha proposto la cabinovia per andare da una parte all'altra del Lago Maggiore. Lago Maggiore, la sua grande piccola opera inutile. Si porta a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Alessandro Marco Tulli, oggi in assistenza in diretta in via del tutto speciale, Peter Bescapà in regia. Ciao da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, e anche a chi ci ascolta in podcast.